codice è stato completato correttamente ed eseguito. Dà come risultato 54 per 10 alla terza secondi. Ora però, il tempo vi parla da lontano. La stazione orbitale di Eterea invia messaggi al vostro regno. Onde di pensiero che viaggiano a una velocità di 3 per 10 alla quinta chilometri al secondo. Se ogni messaggio impiega i secondi appena calcolati per raggiungervi, qual è la distanza tra voi e la stazione?